Euroreportage. Com'è bella la città, verso un'agenda urbana europea, di Alessandra Schepisi. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine, piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce. Spazi verdi, abitazioni confortevoli per tutti, istruzione, accesso alla sanità e ancora opportunità di lavoro, di svago, dialogo, diversità culturale, trasporti efficienti e chi più ne ha più ne mette. È la città del futuro, dell'utopia forse, ma un sogno lo si deve pure avere se si vuole migliorare qualcosa del luogo in cui viviamo, delle nostre città. Le città devono diventare il posto migliore in cui vivere. Questo è l'obiettivo ambizioso della prima agenda urbana d'Europa, quella che esperti e amministratori locali di 28 paesi hanno pianificato a Bruxelles il mese scorso in occasione della conferenza Città del Futuro per investire in Europa, organizzata proprio dalla Commissione Europea. E del resto basti pensare che 2/3 degli europei vivono in insediamenti urbani, ma solo 1/3 di loro dichiara di essere soddisfatto della propria città. Città che, secondo l'Europa, hanno il ruolo di motore della crescita, di poli di creatività e di innovazione. Ascoltiamo allora che cosa ci ha raccontato proprio a Bruxelles il commissario europeo per gli affari regionali Johannes Hahn. A European Growth Agenda, European Strategy EU 2020, which lays down a lot of aims and goals. Reduction of, or dealing with poverty, reduction of poverty is an urban phenomenon. Energy efficiency, be more innovative, to be more competitive. E dunque sostenibilità energetica, inclusione sociale, crescita a basso impatto, occupazione, mobilità intelligente, trasporti efficienti, innovazione, questi devono essere, secondo il commissario Hahn, gli ingredienti delle città del futuro, tutto questo per raggiungere gli obiettivi che l'Unione Europea si è prefissata per il 2020, dalla mobilità all'ambiente sino all'inclusione sociale e alla riduzione della povertà. E intanto un primo passo è stato compiuto con l'assegnazione diretta alle grandi città metropolitane di almeno il 5% dei fondi strutturali, cifra che però, secondo il sindaco di Roma Marino, è ancora troppa poca cosa. Abbiamo compiuto un passo importante, questo fatto confermato dal commissario Hahn, che avremo almeno il 5% dei fondi strutturali europei da utilizzare direttamente nelle nostre città senza altri intermediari, penso che sia un fatto importante. Ma ho proposto che questo avvenga con un metodo preciso, e cioè di disegnare insieme agli altri 27 sindaci delle capitali europee un'agenda, e ho invitato gli altri 27 sindaci a Roma in autunno durante il semestre di presidenza europea, in modo che questo 5% diventi un volano economico per fondi da attrarre dall'Europa, fondi da attrarre dai privati e fondi da attrarre come prestiti dalla Banca Europea degli Investimenti. Un invito questo che a stretto giro il commissario Hahn ha accettato, aggiungendo che la prima bozza dell'agenda urbana europea potrebbe vedere la luce proprio nella città eterna, anche perché, ha scherzato, il Campidoglio è il palazzo del comune con la vista più bella del mondo. Quasi immediately accepted. Standing at the balcony, looking at the Forum Romanum is unbeatable. La mia città senza pietà, la mia città, ma com'è dolcezza essere, ma a volte non senza pietà. Ma tornando ai temi che dovranno far parte dell'agenda urbana europea, uno di questi è sicuramente la mobilità sostenibile. Allora, sempre a Bruxelles abbiamo incontrato Lieke Leonardsen, responsabile strategico del comune di Copenaghen, era lì per raccontare ai suoi colleghi europei l'esperienza di una città che ha davvero molto da dire su questo tema. La città ha lavorato per anni sulla mobilità sostenibile, concentrandosi principalmente sulla bicicletta. L'idea è quella di far sì che sia più facile prendere la bici che la macchina, e quindi abbiamo migliorato le condizioni per le biciclette, dando priorità a queste sulla macchina in molte situazioni. Alle persone conviene prendere la bicicletta perché trovano più posto per parcheggiarla, perché è un mezzo più flessibile. Quindi le persone che vivono a Copenaghen non è che la vivano come una scelta sostenibile, sostenibile, ma come una scelta pratica. Non è una questione di mentalità, non è una scelta ideologica o politica, ma di praticità e di efficienza. Quindi non una scelta culturale, perché in Italia si pensa sempre che occorra partire da un cambio di mentalità, da un cambio culturale. Certo, occorre cambiare la cultura e la mentalità, ma la cultura la cambi facendo sì che sia più conveniente scegliere la bicicletta anziché la macchina. Ho visto il traffico che c'è in Italia e in Italia non userei mai la bicicletta perché mi sentirei molto insicura. A Copenaghen invece mi sento sicura e questo deve essere l'obiettivo di una strategia della mobilità ciclabile. A Copenaghen pedalano anche i bambini di 7-8 anni. Nei paesi dove si va in bicicletta le persone non vestono in modo particolare per andare in bici, vanno vestite da lavoro se vanno al lavoro. È come prendere la macchina, solo che invece della macchina prendi la bici. Qual è la percentuale di persone che usa la bici come mezzo di trasporto in Danimarca? Quasi il 40% la usa come mezzo di trasporto per scuola e lavoro. Nelle città si arriva anche al 50%, quindi è davvero tanta gente che sceglie la bici. Un problema curioso è che ora stiamo vivendo la congestione del traffico da bicicletta e quindi dobbiamo sviluppare nuove strategie per questo. Quanto investite e quanto costa poi alla fine tutto questo? Abbiamo investito molti soldi nella ciclabilità, nelle piste ciclabili, nei parcheggi, ma non c'è paragone con quanto costa investire nell'auto. In termini relativi, investire nella bicicletta costa molto meno. La bicicletta occupa meno spazio, un parcheggio per le bici costa meno. È più facile trovare spazio per 100 bici che per 100 macchine e alla fine il numero di persone trasportate è lo stesso. Copenaghen ha il record per la ciclabilità in Europa o se la batte con Amsterdam? Ce la battiamo con Amsterdam, ma siamo più o meno allo stesso livello. Sono due città che danno la priorità alle biciclette, che fanno in modo che sia più facile prendere la bici. Si arriva a questo anche introducendo alcune restrizioni alle macchine, ad esempio facendo pagare molto il parcheggio delle auto. Because you don't have to pay to park there. Vieni, vieni in città. Che stai a fare in campagna? E dunque, trasporti efficienti ma non solo, anche alloggi confortevoli in un ambiente urbano attraente ad un prezzo accessibile per tutti. Questo è un altro obiettivo al quale dovrebbero tendere le nostre città. Intanto oltre 30 sindaci europei hanno presentato una proposta di risoluzione in cui chiedono più attenzione da parte dell'Europa sulle social housing, le politiche abitative per le famiglie a basso reddito. Tra questi il primo cittadino di Vienna, Michael Haump. Lo abbiamo incontrato anche lui a Bruxelles in occasione della conferenza organizzata dalla Commissione europea. More than 30 mayors of capital cities and big cities in Europe signed it, and I sent it to the president of the commission. The main point is to solve the problems of social housing in Europe. L'obiettivo, dice ancora il sindaco di Vienna, è quello di sollecitare le istituzioni europee ad una maggiore attenzione sul social housing, che deve essere visto non più come un investimento improduttivo, ma come uno strumento integrato nel contesto di altre politiche per combattere la povertà, creare lavoro, realizzare progetti ecoambientali e sanitari. Very sensible handling also in Europe. In Vienna, 46% are social housing. And well, I think we have the lowest problems of housing in whole cities of Europe. E questo, tra l'altro, è un fiore all'occhiello per la capitale austriaca, l'attenzione alle politiche abitative a Vienna. Abbiamo scoperto, parlando con il sindaco Michael Haump, è molto alta, circa il 60% delle famiglie vive in case che hanno variamente beneficiato di finanziamenti pubblici, mentre gli alloggi popolari in senso stretto rappresentano oltre il 6%. Social housing che, secondo il sindaco viennese, è fondamentale per la coesione sociale in Europa e la coesione sociale è fondamentale per la democrazia. Well, I think a really big point of social cohesion, and social cohesion in Europe is a point of our European democracy. E d'accordo si è trovato anche Patrick Rimbert, il sindaco di Nantes, una città dichiarata capitale verde d'Europa nel 2013. The problem is not the problem of competition between social housing and housing as usual. The problem is to build a society, a city society. E dunque costruire una società in cui le città siano luoghi di progresso sociale, di coesione, di dialogo, di democrazia. Prossimo appuntamento per l'agenda urbana europea a Roma ad ottobre. Staremo a vedere se i 28 paesi ce la faranno. Euro Reportage, in collaborazione con Euronet Plus.